Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Europa, Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli. A due settimane dall'incendio che ha distrutto il campo di Moria in Grecia, la Commissione europea ha pubblicato il nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo. Questa iniziativa, rinviata per mesi a causa dell'emergenza sanitaria, ma a essere più precisi in realtà è rinviata da 5 anni, quando per la prima volta era il 2015 si iniziò a parlare della necessità di mettere mano a questi regolamenti, quindi a lungo rinviata e intorno al quale si è creata grandissima attesa da parte di governi e organizzazione della società civile, che naturalmente sono rimasti più volte scioccati, scandalizzati da quanto accade nel Mediterraneo del Sud, da quanto riceve dunque il nord del Mediterraneo, l'Italia, la Grecia in particolare, ma anche la Francia, e dunque della gestione europea del fenomeno migratorio. Dopo tanto parlare, in settimana è stata dunque presentata la riforma da parte della Commissione, che parla di una riforma omnicomprensiva della gestione dei flussi migratori. Tra gli obiettivi dichiarati dai commissari Schinas e Johansson c'è quello di accelerare le procedure di frontiera ai confini esterni dell'Unione per decongestionare le isole greche da una parte, ma naturalmente anche i centri di raccolta italiane, ridurre gli ingressi irregolari lungo la rotta balcanica. Ecco, questo tema è stato affrontato per la prima volta in un discorso dell'Unione, il discorso che tradizionalmente segna l'inizio, il primo intervento di un presidente della Commissione europea di fronte al Parlamento riunito, e questo è accaduto appunto con la Commissione von der Leyen. Naturalmente ci sono stati commenti, critiche, immediate prese di posizione. Allora, magari cominciamo con un servizio a fare un punto sullo stato dell'arte e su quello che la Commissione propone, e poi cerchiamo di capire alcuni aspetti, alcune complessità che sicuramente ci porteremo dietro a lungo. Reasonable balance between responsibility and solidarity. Un nuovo equilibrio tra solidarietà e responsabilità. Con queste parole Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha introdotto il nuovo patto europeo per le migrazioni e l'asilo, un piano che secondo la presidente segna un nuovo inizio e che si fonda sulla solidarietà europea. Nei fatti si punta al controllo dei flussi verso l'Unione europea, cercando di aumentare e accelerare le procedure di rimpatrio. La sponsorship sui rimpatri è una delle novità introdotte dal Migration Pact. You can choose between relocating those that are probably. Come spiega la commissaria agli affari interni Johansson, i paesi che non vorranno accogliere i migranti dovranno aiutare i paesi frontalieri nel rimpatrio pagando o facendosi carico della procedura. Rimane il principio del paese di primo ingresso, dove i migranti saranno sottoposti a un pre-screening. Nell'ambito di questa procedura di frontiera saranno prese rapide decisioni di asilo o rimpatrio. La proposta della commissione però è solo un punto di partenza. Ora deve essere approvata dal Consiglio europeo e negoziato con i paesi di Visegrad, i Baltici e l'Austria sarà durissimo. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Allora, che il negoziato sarà durissimo è cosa certa. È poco ma sicuro, anche perché, ricordiamolo, alcuni di questi paesi ritengono di avere da altre direzioni, da altre appunto orizzonti invece già il loro carico di migranti. L'esempio classico è quello da una parte, o meglio gli esempi classici, da una parte c'è la Polonia. La Polonia ad ogni richiesta, ad ogni anche occasione in cui si lamenta la mancata partecipazione di Varsavia, diciamo, a questo processo, risponde: noi abbiamo già più di 1,5 milioni di migranti da est, in questo caso sono ovviamente, come possiamo immaginare, gli ucraini, cioè altri slavi che sono cristiani, che sono esattamente indistinguibili dal resto della popolazione polacca. Da parte svedese invece c'è una tradizione di politica migratoria che ha fatto sì che sicuramente la partecipazione, l'ingresso negli anni passati in particolare di gruppi, singoli gruppi, famiglie, comunità che arrivano dall'Asia centrale, dall'Afghanistan e da appunto i paesi di quella zona sono, come dire, si muovono in maniera indipendente rispetto a quelli che sono i flussi del sud, quelli che ci riguardano più direttamente. Ora, questo naturalmente non vuole essere, come dire, una spiegazione conclusiva, ma giusto l'invito a ricordare che ciascuno dei paesi dell'Unione Europea solleva le proprie obiezioni e rivendica un proprio ruolo, una propria complessità. Andando avanti, sentiamo, e lo ha l'ha sentita per noi Valentina Forlanetto, un commento su questa iniziativa della Commissione Europea da parte di Adelaide Massimi dell'ASG, degli studi giuridici sull'immigrazione. Sentiamo cosa ne pensa. Da un lato ci sono strumenti di frontiera che mirano a analizzare molto velocemente le richieste anche in base a procedure di ammissibilità, quindi se una persona è ammessa o meno alla richiesta d'asilo, e questo si fa attraverso procedure sommarie e che comportano una grave contrazione dei diritti dei richiedenti asilo proprio nell'accesso alla procedura. E poi le persone che superano, diciamo, questo primo screening vengono avviate alle procedure di ricollocamento. È un meccanismo, è una strategia complessiva che tiene insieme sia un rafforzamento delle frontiere e una accelerazione delle procedure in frontiera che i meccanismi di ricollocamento. Valutazione sommarie, questo è uno degli elementi di complessità, quindi banalmente da dove arrivi? Arrivi da un paese in guerra oppure hai una nazionalità di un paese in guerra che di fatto ti riconosce una specificità, oppure sei parte di una minoranza che in alcuni luoghi non rappresenta alcun problema ma altrove invece il problema c'è, come minoranze etniche, religiose, culturali, sessuali. Ecco, questo è il quadro della complessità. Completiamo gli ascolti, diciamo, dei contributi. Molti hanno commentato, evidentemente, nei giorni immediatamente successivi, dunque a cominciare da giovedì. Sentiamo insieme il presidente della Camera, Fico. E fino a poco tempo fa l'area di revisione o abolizione del regolamento di Dublino, perché non può essere il paese di prima accoglienza che gestisce il tutto, oggi sentire la Presidente della Commissione Europea, la von der Leyen, dire che i paesi di prima accoglienza non possono gestire tutto e che il regolamento di Dublino va abolito e riscritto e la ridistribuzione deve essere attuata obbligatoriamente da tutti i paesi europei, io credo che per l'Italia questo già sia un risultato. Adesso bisogna, diciamo, buttare la palla in rete e cercare, come sì, come si è fatto con il recovery fund, che è stato tutto un successo italiano, di provare a lavorare su un nuovo regolamento di Dublino che metta d'accordo tutti e metta a punto alla questione dell'immigrazione. Questi paesi è tutto tempo che fanno muro, ma prima non c'era una commissione che mette al centro questa questione in modo così importante, e oggi che c'è un altro tipo di commissione, oggi che abbiamo imparato almeno per una volta come Europa ad avere un debito comune garantito da tutti, oggi credo che ci sono tutte le carte in regola anche per convincere questi paesi a nascere anche sulle politiche migratorie una nuova Europa. Ecco, questo era dunque il presidente della Camera Fico, che dice passo avanti, e direi che tutto sommato è quello che possiamo ritenere. La strada è ancora lunga, le divisioni sono enormi, la trattativa è implicita, esattamente come diceva il presidente della Camera sul recovery fund, sulla fiscalità comune, sull'esercito europeo, vuol dire tutti i temi in cui la storia dell'Unione Europea, che è fatta di accordi successivi e di ingressi successivi, è sicuramente molto indietro. Ecco, Spero di avere fornito attraverso anche queste voci quello che è un po' il punto della situazione. Di certo ne sentiremo parlare parecchio. Adesso, tra un istante, gli aggiornamenti per chi è in viaggio. Poi abbiamo un ospite, si tratta di Danilo Elia, collega giornalista della RAI di Trento, e assieme a un gruppo di altri giornalisti, in particolare con Cristiano Tinazzi, ha realizzato e sta realizzando un documentario che è la ricerca della verità intorno a un drammatico caso avvenuto nel 2014 ai confini estremi dell'Europa. Torniamo tra un attimo. Europa, Europa. Se i colpi sono quelli che si sentono nel filmato, quelli sono colpi che arrivano giudicando l'audio non più di 250-300 metri. La voce che avete sentito è quella di Luigi Scollo, comasco, generale di divisione, oggi in congedo. Scollo è stato comandante dell'undicesimo reggimento bersaglieri a Nasiriya, in Iraq. Scollo è uno degli esperti coinvolto nell'inchiesta giornalistica di Cristiano Tinazzi, Danilo Elia, intorno alla morte di due giornalisti, Andrea Rocchelli e Andrei Mironov. Fotoreporter pavese, il suo collega, interpreta, attivista per i diritti umani russo, entrambi morti a Sloviansk, in Ucraina orientale, il 24 maggio del 2014. I due caddero sotto i colpi di un mortaio e nel 2019, quindi nel luglio scorso, a Pavia in primo grado, è stato condannato l'allora sergente della Guardia Nazionale Ucraina Vitali Markiv, italo-ucraino, cresciuto prima in patria, poi nelle Marche, arruolatosi in quello stesso anno per difendere la sua Ucraina dalle milizie separatiste sostenute dalla Russia negli oblast di Donetsk e Lugansk. Questo è il quadro di una storia che sicuramente è una storia drammatica, è una storia di giornalisti che cercano di fare il proprio lavoro, ma che emerge anche come una storia con diciamo tante sottostorie che ci aiuta a capire e esplorare uno degli autori, Danilo Elia, che è con noi oggi. Grazie Danilo innanzitutto. Grazie a te, buongiorno a tutti. Ma sì, infatti io aggiungerei che è una brutta storia. Una brutta storia da tutti i punti di vista, tutti i lati dalla quale la si guarda, perché intanto è la storia, appunto, come hai detto, di due giornalisti uccisi in una zona di guerra, ed è per quanto tale è già brutta di per sé. Una brutta storia perché, come in tanti casi simili, siamo molto lontani dallo scoprire la verità sulle responsabilità, se ce ne sono, sulle colpe. Ma soprattutto è una brutta storia, ancora più brutta se vogliamo, perché appunto c'è una sentenza di primo grado di un tribunale italiano che, nel tentativo giusto, nobile, di fare giustizia, ha fatto secondo noi un gran pasticcio, e per questo ora c'è una persona in carcere condannata a 24 anni e tra pochissimo inizierà a Milano appunto il processo d'appello su questa sentenza. È un processo che alla fine a nostro parere, con noi oltre Cristiano Tinazzi c'è anche Olga Tokariuk e Ruben Lagattolla a fare questo documentario, questo lavoro d'inchiesta, una sentenza che a nostro parere ha fatto un gran pasticcio, perché tutto sommato abbiamo noi oggi un solo responsabile ipotetico, un soldato pescato da un mazzo tra altri 140 soldati che erano presenti nel luogo della battaglia dalla parte dello schieramento ucraino, è pescato a nostro parere per un brutto gioco della sorte, perché questo soldato, che si chiama Vitali Markiv, si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato, molto probabilmente. Sì Danilo, perché ripartiamo dunque dalle posizioni di questa tragedia. Siamo nel 2014, siamo a Sloviansk, in una cittadina nell'est dell'Ucraina che era stata presa dai separatisti appoggiati dai russi. C'era una linea del fronte, se così possiamo dire, che coincideva con una ferrovia. Da una parte verso la città c'erano i separatisti arroccati in una fabbrica, dall'altra parte su una collinetta al di là della ferrovia c'erano gli ucraini. Andrea Rocchelli, il gruppo di Andrea Rocchelli, insieme a Andrei Mironov, c'erano anche altre persone, anche un reporter francese che è sopravvissuto, William Roguelon, sono andati su questo, sono andati vicino a questa linea della ferrovia, questo passaggio a livello, e lì sono morti per dei colpi di mortaio. Quello era un bersaglio noto delle truppe ucraine che sparavano in quei giorni con una forte intensità con l'artiglieria, perché lì giù c'era una base dei separatisti, e quindi loro di fatto si sono trovati in un combattimento in atto. Abbiamo sentito poco fa quell'audio originale, quello è stato registrato da William Roguelon, il sopravvissuto, mentre il gruppo si era rifugiato in un fossato lì, e si sentono colpi da tutte le parti, colpi anche vicini. Quindi la loro apparentemente è una classica morte in una zona di guerra, un tragico incidente di civili, di giornalisti che si sono trovati nel mezzo di una battaglia. Il Tribunale di Pavia non è stato però di questo parere, ha ritenuto di condannare un militare ucraino per un'azione che è stata definita dalla Corte deliberata, un omicidio deliberato, come se fossero stati presi di mira questi giornalisti. Noi siamo andati, abbiamo fatto un'indagine molto tecnica, siamo andati sul posto, abbiamo fatto dei test, delle prove di tiro, delle mappe digitali del terreno per cercare di capire se questa costruzione fatta dal Tribunale di Pavia fosse plausibile, sostenibile. Danilo, da questo punto di vista, è bene dirlo subito, voi siete andati a fare questo tipo di lavoro di fatto scrivendo un testo su carta bianca, perché il Tribunale non aveva mandato, diciamo, dei propri professionisti specialisti a svolgere un lavoro paragonabile, o sbaglio? Sì, e qui veniamo proprio a uno dei tanti punti di quello che io ho chiamato prima un grande pasticcio. Il più eclatante fra tutti, se vogliamo, è il fatto che nessuno degli inquirenti durante le indagini, nemmeno il pubblico ministero, nessuno è andato a rendersi conto di persona, a fare un sopralluogo del luogo dell'evento. Ricordiamo che lì, in quel punto esatto, a sud di Slaviansk, in questa cittadina, in realtà la linea del fronte si è spostata quasi subito, già a luglio del 2014, quindi due mesi dopo la morte di Rocchelli e Mironov, la cittadina era stata riconquistata dalle forze ucraine. E quindi due anni dopo, quando è iniziato il processo, due anni e mezzo dopo, era accessibilissima. E quindi già manca questo dato fondamentale, andare a rendersi conto di come fosse il terreno, partendo dall'ipotesi accusatoria che Vitali Marchi, arroccato su questa collina, abbia visto il gruppo di giornalisti e deciso di far sparare l'artiglieria contro di loro per ucciderli. La prima cosa da fare è andare a vedere, ma da quella collina si vede giù? Questa analisi di visibilità simula un punto di osservazione e si chiede alla macchina di simulare una persona che sta guardando da quel punto, inserendo il punto di osservazione nel quale si trovava Marchi e inserendo i punti che sono stati dichiarati durante il processo, possiamo affermare con ragionevole certezza che tutti i punti, tutti lungo la strada, ad eccezione del passaggio a livello e del treno, non fossero visibili in quel momento. Diciamo che il nostro lavoro è stato in salita per diversi motivi, sotto diversi punti di vista. Uno, perché è stata un'inchiesta difficile da fare, perché appunto noi siamo andati diverse volte sul posto, abbiamo coinvolto degli esperti, abbiamo sentito poco fa la voce di Paolo Fusinez, che è un cartografo esperto, una mappa tridimensionale fatta con un drone, eccetera. Ma è stata difficile anche perché abbiamo trovato una notevole resistenza da una grossa fetta della nostra categoria di giornalisti. L'idea che è passata è come se cercare di fare chiarezza e mettere in dubbio soprattutto una verità processuale che avrebbe trovato il suo capro espiatorio, la sua spiegazione, il suo colpevole, mettere in dubbio questa costruzione fosse un letteralmente gettare fango sulla memoria di Andrei Rocchelli e Andrei Mironov, delle vittime. Il punto è che a nostro parere qui non si tratta di mettere sul banco degli imputati un paese, l'Ucraina, o i separatisti, una parte o l'altra, parteggiare per gli uni e per gli altri. Qui si tratta di capire se mettendo in carcere un capro espiatorio perfetto, quale è Vitaly Martin, che ricordiamo ha la doppia nazionalità, e questo ovviamente lo rende da questo punto di vista molto speciale rispetto ai suoi compagni militari. Sì, questo è una della serie di casualità che lo ha fatto appunto trovare nel posto sbagliato al momento sbagliato, cioè il fatto unico soldato rintracciabile per la magistratura italiana, perché cresciuto in Italia, quindi aveva la cittadinanza italiana, era il riferimento di molti freelance presenti lì, molti avevano il suo numero di telefono, ed è così che è incappato nelle maglie della giustizia, perché lui aiutava, dava informazioni ai giornalisti italiani perché parlava italiano. È stata provata la sua colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. Danilo Elia, in conclusione lo ricordiamo, le prossime tappe, quindi un processo di appello ormai imminente, un lavoro giornalistico che continua. Il nostro lavoro continua proprio intanto seguendo l'evolversi del processo d'appello. E noi siamo appunto, abbiamo realizzato una specie di estratto da cui abbiamo sentito quelle due clip che abbiamo mostrato al pubblico in un paio di occasioni con delle consulenze molto tecniche, ma il vero e proprio documentario, che è in fase di lavorazione, ci auguriamo possa uscire questo autunno, ha come obiettivo quello poi di completare il racconto della storia. Quindi noi aspettiamo di vedere che cosa deciderà il Tribunale, la Corte d'Assise d'Appello di Milano, e anche se prenderà in considerazione le nostre evidenze. Non le chiamo prove, perché noi non vogliamo sostituirci agli inquirenti e ai giudici, però ecco, aspettiamo anche di vedere se i giudici milanesi prenderanno in considerazione le testimonianze che abbiamo raccolto noi, le evidenze che abbiamo raccolto noi. Grazie a Danilo Elia di essere stato con noi. The Wrong Place, ve lo ricordo, potete seguire, conoscere di più di questa storia che, per quanto mi riguarda, è una storia profondamente europea, sia da un punto di vista geografico, sia perché la giustizia, la trasparenza, la libertà di accesso anche in luoghi difficili deve rimanere una caratteristica di questo continente, della sua storia, della cultura. E quindi penso che questa storia stia molto bene qui a Europa. Europa, è tutto per questo appuntamento. Noi ci risentiamo come sempre la prossima settimana. Adesso tutti gli aggiornamenti da GR24. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba, perché è semplice, è completa e conveniente, da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta, non la lascia più. Vai su aruba.it.